Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. È stata presentata il 12 aprile al Palazzo delle Nazioni Unite insieme ad altre 5 tecnologie italiane di punta in campo ambientale. Si chiama Venus Swarm, che suona come l'arma finale di un robot giapponese, ma in realtà ha delle finalità decisamente più pacifiche. Parliamo di uno sciame di robot subacquei in grado di comunicare tra loro e quindi di coordinarsi per compiere delle indagini complesse. Il filone degli sciami di robot, che si ispira in qualche modo al mondo degli insetti sociali, è da tempo al centro dell'interesse dei ricercatori, ma le cose si complicano molto quando si parla di droni acquatici, perché l'acqua impedisce di utilizzare la tecnologia regina di tutte le comunicazioni wireless, le onde radio. Venus Swarm è inserito in questo filone di ricerca ed è in realtà l'ultimo risultato di un lavoro dell'Enea di 7 anni. Ne parliamo con Claudio Moriconi, che è responsabile dell'unità di ricerca su intelligenza distribuita e robotica dell'Enea. Buonasera Moriconi. Buonasera. Senta, allora, per spiegare, partiamo intanto, ma molto brevemente, dalla singola unità robotica, se ce la descrive rapidamente. Perfetto, la singola unità robotica è un oggetto estremamente semplice perché, come potete capire, dato che i robot saranno tanti, altrimenti poi costerebbe troppo fare. Certo. Quindi è un oggetto che dispone di pinne per modificare la propria direzione, di un singolo motore, al contrario di altri sottomarini che sono in produzione, che si possono comprare, che ne hanno 3, 4, 5, certo, e che però ha una notevole agilità e una notevole capacità di muoversi all'interno dell'acqua. È proprio simile a un pesce a vedersi. Forse non tanto simile a vederlo come forma esterna, però è simile come tipo di movimento. Possiamo farlo muovere quasi come un pesce. E anzi, forse come un banco di pesci, dovremmo dire. Vediamo proprio al punto, no? Perché per mantenere quelle traiettorie così allineate, i pesci, piuttosto che anche gli uccelli negli stormi, hanno bisogno di comunicare. Si mantengono in contatto visivo, si guardano, per esempio. Ecco, e quindi voi come avete fatto a risolvere il problema della comunicazione in acqua? Allora, ci sono tanti modi di farli comunicare tra loro e noi ne usiamo parecchi contemporaneamente. C'è naturalmente la parte di visione, e la parte di visione può essere usata perché si vede sostanzialmente la sagoma della macchina che ti sta vicino e si cerca di seguirla. C'è la parte di comunicazioni acustiche che i pesci usano, naturalmente. C'è taccia in particolare, che non sono pesci, ma insomma la usano, come è noto. E naturalmente ci sta anche la parte ottica, che è un qualche cosa di abbastanza nuovo che abbiamo introdotto recentemente e sulla quale ci aiuta anche l'Università di Tor Vergata, che si occupa. Cioè, comunicate con dei lampi di luce sostanzialmente? Comunichiamo con dei lampi di luce. Sostanzialmente il lampo di luce può essere modulato così come le trasmissioni elettromagnetiche, e se la distanza non è tanta, certo, è possibile scambiarsi moltissime informazioni. Ora, nel caso degli sciami, come lei giustamente ha introdotto prima, la distanza può variare tanto. Noi abbiamo scelto che i nostri robot debbano navigare vicini, qualche metro di distanza, massimo 10-15 metri di distanza, e questo ci consente di usare dei modem acustici molto più veloci e dei modem ottici ovviamente enormemente più veloci. Ecco, vediamo le prime applicazioni di questa tecnologia. Ne avete già qualcuna così pronta? Ma le tecnologie, le applicazioni sono veramente tantissime, perché innanzitutto noi dobbiamo considerare che il mare è un posto in cui piano piano l'umanità dovrà estendersi e quindi dovrà imparare a gestirlo sempre meglio. Ci ha sempre navigato sopra, ma sotto, insomma, non è stata mai un'attività particolarmente diffusa. Si possono fare monitoraggio di strutture sommerse, quindi controllare, per esempio, faccio un esempio delle piattaforme offshore per le stazioni petrolifere, sono oggetti che sono sottoposti a un fortissimo degrado e quindi bisogna controllarli in continuazione. Si possono controllare da un punto di vista della sicurezza delle infrastrutture critiche, si può controllare l'inquinamento delle coste, lo stato delle coste. Vi ricorderete che adesso spesso e volentieri ci sono smottamenti causati anche, certo, da problemi delle... Ecco, diciamo, quel tipo di informazioni si ottengono sulla superficie, ma sott'acqua è un po' più difficile e possiamo agire anche lì adesso. Così come si fanno anche cose ancora diverse, per esempio il Mediterraneo è praticamente un fondale tutto coperto di relitti di epoche passate. Certo. Ebbene, l'indagine su questi fondali viene affidata spesso e volentieri a ROV oppure a macchine come le nostre, quindi sono macchine automatiche che sono in grado di esplorare in parallelo. In modo sistematico, sostanzialmente. Quindi, ecco, che autonomia hanno? Quanto stanno in giro prima di doversi ricaricare questi robot? Allora, ovviamente tutto dipende dalla sorgente di energia che ci si mette dentro. Con le attuali batterie a litio, noi abbiamo valutato che le nostre macchine possono stare in mare per 6-8 ore consecutivamente navigando. Però ci sono possibilità alternative che stiamo studiando. Senta, molto velocemente, alla fine qual è il vantaggio utilizzare uno sciame di robot al posto di un robot singolo per fare tutte queste attività che stavamo dicendo? E il vantaggio è il fatto che intanto si ha una percezione dell'ambiente estremamente estesa. Voi dovete pensare a questo sciame di robot non come tanti robot separati, ma come un'unica creatura che comunica al proprio interno e riesce a riunire insieme tutte le informazioni che raccoglie. Quindi come avere un robot distribuito, appunto, come intelligenza distribuita, che è anche il vostro campo alla fine di ricerca. Grazie Moriconi. Prego, arrivederci. Va bene, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.